programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Una settimana caldissima, bisogna dire caldissima, anche se fa freddo, queste sono a volte le incongruenze delle situazioni, no? della vita anche, caldissima nel senso che veramente questa settimana ne sono successe di tutti i colori, quindi prendiamoci il tempo in questa oretta per commentare insieme i fatti di questa settimana. Sapete che poi questa è l'unica trasmissione che a fine settimana vi fa un po', diciamo così, il resoconto di tutte le cose che sono avvenute in questi giorni, da domenica scorsa fino a oggi, e vi dà la possibilità di ascoltare e anche di fare liberamente tutti i commenti possibili su quello che è successo. Insomma, diciamo, questa è veramente l'unica trasmissione che dà questa occasione, un po' di autopromozione la sempre bene naturalmente. 800 24 00 24 per chi vuole intervenire in diretta, quindi segnatevi il numero o memorizzate se avete una buona memoria, 800 24 00 24 per dire la vostra sui tanti fatti che adesso piano piano andiamo a snocciolare. Tra poco vi presento anche ovviamente l'opinionista estemporaneo di oggi, però vogliamo fare un sunto breve delle notizie, poi se ce ne sono altre che vi stanno a cuore naturalmente me le raccontate voi. Ovviamente in primissimo piano c'è la tragedia della nave Costa Concordia, con tutti tra l'altro gli incredibili dettagli e retroscena che stanno venendo man mano fuori dalle inchieste, perché ce ne sono anche, ci sono un po' delle ramificazioni tra i tanti fatti, anche una specifica per esempio su il timone che era tutto a dritta e che all'ultimo momento a gran velocità doveva evitare lo scoglio. Insomma, la faccenda è molto articolata naturalmente, oltre che profondamente drammatica. Poi il pacchetto liberalizzazioni, che sapete ieri il governo Monti, dopo ben 8 ore di seduta di Consiglio dei Ministri, ha varato, e quindi adesso questo dovrebbe essere il Cresci Italia, no? Questo decreto, più crescita con le liberalizzazioni, promettono grandi risparmi, promettono anche una crescita dell'economia, dell'occupazione, però già ci sono le categorie che lancia in resta, a parte i tassisti che si sono molto fatti sentire in questi giorni e continuano a farsi sentire, e poi anche le farmacie promettono serrate. Anche i benzinai sciopero, tutti nel panico, oddio, devo andare subito a fare benzina, ancora non è chiaro quando, però voglio dire, insomma, quindi dicevo, caldo questo inverno anche da questo punto di vista. Poi altre cose, in Sicilia la protesta dei forconi che ha bloccato un'intera isola, e c'è chi dice ma forse possono avere ragione ma non nel metodo, chi li appoggia completamente, chi invece dissente totalmente da questa manifestazione. Poi ancora guai per la regione Lombardia con Massimo Ponzoni, ex assessore di Formigoni e poi consigliere regionale, che è stato arrestato per bancarotta, concussione e finanziamento illecito ai partiti. Insomma, ultimamente ogni poco ne viene fuori qualcuna. Poi dopo 22 anni di carcere libero Adriano Sofri, e c'è anche un personaggio che è scomparso e che vorrei ricordare così. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Non Marcella, ma chi ha scritto questa canzone bellissima per lei? Ha scritto tantissimi successi italiani, da Rose Rosse fino a Self Control di Raff e moltissime altre, Gli uomini non cambiano di Mia Martini, ma un elenco infinito, Lisa dagli occhi blu, tanto per tornare indietro avanti, Gloria, Ti amo di Tozzi, tantissime. Giancarlo Bigazzi, che è morto questa settimana a 71 anni e ha segnato veramente una buona parte del costume italiano, perché anche il pop, la cultura popolare fa parte delle nostre vite, forse è quella che più integralmente, più profondamente fa parte di noi, e quindi mi piaceva ricordarlo così. Però adesso appunto vi ricordo il numero per le notizie della settimana, 800 24 00 24, e prima di presentarvi, ancora tengo un pochino di suspense, l'opinionista estemporaneo di oggi, e vi voglio anche voglio mantenere il rito di dirvi che cos'è che questa settimana ci conferma che non ci sono effettivamente più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Anche quelle intere, vabbè. Abbiamo sempre cercato, da che esiste l'uomo, gli esseri umani, donne e uomini, diciamo più giustamente, si è sempre cercato un qualcosa che esistesse, a parte le divinità, Dio, eccetera, ma degli altri abitanti dell'universo, forse un po' per non sentirsi soli, per immaginare che c'è anche qualcun altro, non siamo così piccoli e sperduti nell'universo, forse invece come paura di una minaccia, oddio, se poi ci invadono, forse più questa seconda ipotesi, ecco, sempre gli extraterrestri, poi voi sapete che questa è anche l'unica trasmissione in tutto l'universo avere un collegamento extraterrestre, però extraterrestre qui, extraterrestre là. Invece adesso un team di studiosi internazionali capeggiato da ricercatori italiani hanno trovato gli intraterrestri, come cerchiamo sempre fuori extraterrestri, ma ci sono pure gli intraterrestri, sì, vivono in ambienti estremi, in rocce provenienti dal mantello terrestre sotto le dorsali oceaniche. Analoghe, ci sono delle analogie con Marte, pensate alla straordinaria coincidenza, no? Il nostro collegamento è proprio con Marte, e sono degli organismi chiamati estremofili, estremofili perché vivono effettivamente in ambienti estremi, non immaginate anche queste con le antennine che arrivano, tutti robottini, no. Sono degli organismi molto complessi, particolari, piccolissimi, sono appunto gli intraterrestri. Ma a questo punto rimaniamo invece, diciamo, sulla superficie terrestre e vediamo qual è l'opinionista estemporaneo, signori e signori, di oggi. Umberto Brindani. Buongiorno a tutti quelli che ascoltano. Umberto, cosa brindiamo? Brindani, scusa, questo facile gioco di parole. Cosa brinderesti? No, ti confermo che non ci sono più le mezze stagioni, sì? Perché il freddo è arrivato così di colpo che mi ha stroncato anche la batteria della moto, sono a piedi. E quindi adesso hai raggiunto, sei al caldo, spero, Umberto, non è che caldo, sei rimasto in mezzo. Caldo, sì. Ma sei uno di quei motorizzati, di quelle moto proprio, moto serie, no, o lo scooterone? Scooter, no, così? sono di quelli degli scooteroni. Un po' più ecologico, un po' più easy, come si dice, Umberto. Umberto è il direttore del settimanale Oggi, quindi ci avrai anche qualcosa da raccontarci poi. Ho visto che c'è questa indiscrezione su un politico, ma ce lo dici tra poco, perché invece volevo farti una domanda di estrema importanza, tanto per iniziare, Umberto. Volevo chiederti, se non sono indiscreta, tu hai una casa abbastanza grande? Sì, abbastanza. Abbastanza, sì, grande. Siamo una famiglia numerosa. Quanti siete? Siamo cinque. Cinque, tre figli. O c'è il gatto compreso, no? No, sono vari figli di... Ho capito. Siamo la cosiddetta famiglia allargata. Allargata, sei alla pace, sei proprio nei tempi, insomma. Te lo chiedo perché, magari un terrazzino, un giardinetto, una cosa... Un terrazzino, piccolo. Con qualche pianta, insomma, qualche ramo. Ecco. Sì. Te lo chiedo perché volevo sapere se magari avevi un pochino di spazio in casa per un'iguana. Spazio c'è, la volontà di prenderlo dipende da altri fattori. C'è la volontà? Ci può essere la volontà? No, perché ti dico, non lo so. No, perché ti dico, Milano non ha solo il problema dello smog e anche dell'andrangheta, diciamo, ma adesso c'è proprio una corsa a liberarsi di animali esotici, gufi, cervi, c'è anche quest'iguana che cerca famiglia, c'era proprio sul Corriere giorni fa, quindi ho detto, ma magari chiamo Brindani se c'è un po' di posto. No, comunque, guarda, ho un collega, amico carissimo, che potrebbe... Sì, che da sempre, a parte di fare la collezione di coleotteri, altre... Ecco, sui coleotteri è volata via la linea, adesso lo riprendiamo subito, è vero, Jean Gabriel? Mentre direi di dare immediatamente spazio, secondo me era una scusa per non prendere l'iguana in affido. Fabio da Latina, caro Fabio. Buongiorno. Eccoci qua, subito a te la parola, visto che Brindani... Io ho seguito da poco Radio 24, quindi gli argomenti che io volevo trattare sono quelli dell'economia, diciamo. No, Fabio, adesso voglio sapere una cosa. Hai seguito da poco Radio 24, nel senso che non l'avevi mai sentita prima? Hai seguito da poco Radio 24? Sentita. Nel senso, la trasmissione sentita. Oggi? Sì, diciamo. Mi hanno chiesto di cosa volevo parlare, io ho parlato un po' della questione economica. Fabio, però voglio sapere una cosa, adesso che ti presenti così da poco. Voglio sapere, tu non ci sono più le mezze stagioni, l'ascolti tutti i sabati dalle 14 spaccate alle 15? Sì, io ascolto sempre, ma anche altri giorni. Diciamo. No, anche altri giorni mi fa piacere, ma il sabato non ci sono più le mezze stagioni? No, perché... Sì. Allora puoi parlare, va bene. Prego Fabio, dimmi pure. Io volevo dire, volevo che... se si potesse fare delle proposte per quanto riguarda l'economia, diciamo, per addrizzare un po' le cose. Sì, sentiamo. Una, secondo me, essendo un piccolo imprenditore, diciamo, e sentendo le difficoltà che sentono tutti quelli come me, diciamo, sarebbe di proporre un congelamento per 6 mesi almeno, per dare un po' una prospettiva a chi come me lavora dalla mattina alla sera e ha questi problemi, di un attimo rifarsi 2 conti, perché qui ci alziamo tutte le mattine. Scusa, il congelamento col freddo, Fabio, mi fa un po' un certo effetto. In che senso congelamento? Congelamento, diciamo che chi deve pagare delle finanziarie, delle banche, per cui in anni indietro, diciamo, siamo stati spronati a fare dei finanziamenti, a prendere dei finanziamenti. Chi ha dei debiti, vuoi dire? Chi ha dei debiti? Chi ha dei debiti regolari, che è una persona seria, che ha una partita IVA, che è una persona, diciamo, che sta lì a lavorare, non a fare, diciamo, impicci, come si suol dire qui in Centro Italia, che gli si dava una possibilità di respirare, di dire: guarda, per 6 mesi ti blocchiamo i pagamenti, in modo che tu un attimo ti rifai un attimo i conti, ti organizzi meglio con il lavoro e non hai quest'ansia tutte le mattine prima di uscire e andare a lavorare e di dover per forza correre appresso alle banche o questi che ti chiamano, recupero crediti. Insomma, qui non si vive più. Diciamo, ecco, questa sarebbe una cosa buona per dare un po' di respiro, ecco, chiamiamolo così, un po' di respiro a tutte queste persone che hanno queste problematiche. Fabio, adesso poi, sentiamo cosa... Volevi aggiungere qualcosa? Sì, un'altra cosa molto importante. Sì. Poi c'è un problema molto grave, signora. Non so se lei... Non mi chiamare signora, però ti prego, Fabio. Non so se lei... Roberta, non sì. Non so se tu, Roberta, giri nei bar, nei luoghi che sono le persone normali. Sì. Normali, diciamo. Quindi sì. Io sto parlando per persone normali. C'è un grande dramma che è il gioco, le slot machine, che ormai hanno invaso tutti i bar dove noi andiamo. E di conseguenza, se c'è un'istigazione alla prostituzione, quando ti fermi una donnina poverina per strada che ha bisogno di sopravvivere, per cui noi approfittiamo di queste cose, è schiavizzata, c'è sì. un'istigazione dello Stato anche al gioco. Siccome loro dicono che chi gioca tanto è un malato, il malato, secondo me, in un paese civile va salvaguardato. Per salvaguardare questo malato si potrebbero inserire delle schede magnetiche dove una persona che ha problematiche vere può essere testato dal gioco, ossia io con una semplice, come quando si entra in banca che si appoggia il dito sopra a quello scanner, io con questa semplice scheda, se metto la scheda, io sono una persona che si vuole esentare dal gioco, però non ci riesco vedendo il gioco davanti a me, quindi sono un malato, io posso essere esentato mettendo la mia scheda, la macchinetta non funziona. Non so se mi ha capito. Ho capito, Fabio, ma c'è sempre modo comunque di aggirare queste cose. Comunque, vediamo se il nostro Umberto Brindani ti è riemozionato per l'iguana, Umberto? Moltissimo. Molto. Senti, Umberto, che ne pensi della situazione, della proposta di congelamento che diceva Fabio, con i piccoli imprenditori che hanno dei debiti con le banche e finanziarie? Entrambe le proposte di Fabio sono di grande buon senso. Il problema sulla seconda è che ovviamente è, come dicevamo prima per l'iguana, un problema di volontà, cioè se uno ha la volontà di smettere, così come ha la volontà di smettere per esempio di fumare, ci riesce. Se non ha la volontà, non credo che ci sia tesserina che tenga. Senti, la volontà di smettere di pagare debiti mi sembra un po' invece, un po' quanto, complicato. Quanto al cosiddetto congelamento, il problema è che è una buona idea ma non abbiamo tempo. Cioè, diciamo, tutto quello che sta facendo il governo Monti, sta facendo tantissimo, perché in 2 mesi è come se fossero passati 2 anni, diciamo, secondo quelli che sono i tempi della politica nostrana, no? Lo sta facendo perché noi abbiamo un'emergenza vera, abbiamo bisogno di uscire dal buco nero nel quale negli ultimi mesi e anni siamo precipitati, e quindi se dovessimo congelare, dici, anche chi deve pagare, qui non se ne esce più, insomma, non credo che sia possibile. Credo piuttosto che il governo dovrebbe decidersi a intervenire su altri campi, per esempio la tanto discussa questione Equitalia, no? Che insomma ogni tanto ritorna, adesso in questi giorni non se ne parla perché si parla delle liberalizzazioni. Beh, intanto c'è qualche esplosione che riguarda Equitalia, mi sembra, no? Naturalmente, dato per scontato e premesso che tutto quello che viene fatto contro Equitalia dalle lettere esplosive va pesantemente non solo censurato ma punito dalla legge, però c'è qualcosa di vero nel fatto che Equitalia colpisce quelli che già le tasse le pagano generalmente, no? E quindi è vero, magari strozzano anche piccoli imprenditori onesti, strozzano dipendenti che magari guadagnano 1.000 o 1.200 euro al mese e si sono dimenticati di pagare una multa. È successo a me, sì. Insomma, quindi su questo versante, al di là del congelamento che proponeva Fabio, credo che il governo dovrebbe decidersi a fare qualcosa. Bene tante Cortina, io sono per una... un'invasione a tappeto, che poi è successo anche a Roma, no? E anche man mano sta succedendo in altri però vi prego, fate qualcosa per rendere Equitalia più umana, mi verrebbe da dire. E c'è Antonio, prima di ripassare Umberto. Antonio, Buongiorno. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti quanti voi e complimenti per la trasmissione. Grazie Antonio. Quante volte l'ascolti in un mese? Così, per curiosità. Ma diciamo che io vi ascolto quasi tutti i giorni. Ma anche questa l'ascolti quasi tutti i giorni? Sì, sì, questo programma ascolto quasi tutti i giorni, no, perché è un programma molto interessante e culturale. Antonio, è solo il sabato questa trasmissione? Però tutti i giorni che lo fate, voglio dire. Ah, va bene. Tutti i giorni che lo fate. Ti sei salvato benissimo, complimenti Antonio. No, ma dai, non è che mi sono salvato, è così, è così. Va bene, allora, Antonio, sei simpatico. Io volevo soltanto dire una cosa, che siccome faccio il rappresentante da tanti anni, ormai sono 35 anni che faccio questo lavoro. Cosa rappresenti? Io rappresento un'azienda di detergenza per le persone, detergenza... Cosmetici, case, quindi, e detersivi. Collant, per non dire la marca. Allora, niente, volevo soltanto dire questo. Allora, visto che la legge del mercato è quella che se si abbassano i prezzi si vende di più, no? Io non capisco perché questi grandi economisti che abbiamo in Italia non riescano a capire che abbassando i prezzi, abbassando le tasse, si crea più economia. Quindi automaticamente si crea più posti di lavoro. E questo che purtroppo non riusciamo a capire qui in Italia, mentre in altre nazioni si sta verificando questa cosa, vediamo anche l'America. L'America ci ha dato Senti, ma secondo te Antonio, adesso con queste liberalizzazioni si abbasseranno i prezzi, i costi, nel i pesi sul fabbricato? Assoluto, perché noi abbiamo avuto già praticamente altre liberalizzazioni e non hanno fatto niente altro che aumentare i prezzi. Quindi e insomma, portare... pensi che servano o non servono? Non ho capito bene. Non servono, assolutamente. Ma guarda, ci sta una grandissima diciamo verità, che è quella delle assicurazioni. Da quando hanno liberalizzato le assicurazioni, i prezzi sono saliti alle stelle. Antonio, sentiamo cosa ne pensa, perdonami, e ascolta sempre la trasmissione, che sia tutti i giorni o solo il sabato, poi ci sono naturalmente i giornali radio anche che faccio la sera. Umberto Brindani, che dici di questa, guarda, secondo te? Sulle assicurazioni è vero, ma lì è mancato il controllo. Invece sul concetto generale espresso da Antonio io non sono d'accordo. E guarda, preferisco leggerti due righe di un articolo che ha fatto oggi Tito Boeri, l'economista Tito Boeri su Repubblica, che spiega in pochissime parole l'effetto delle liberalizzazioni. Lui dice: liberalizzare significa espandere i mercati, permettere che ci siano più venditori con prezzi più bassi e dunque più compratori. Molte delle misure varate ieri rimuovono barriere all'entrata, cioè diciamo più taxi, più farmacie, no? Più lavoro, più permettendo a un maggior numero di operatori di entrare nel mercato. Mercati più ampi significano più reddito e più occupazione. E lui fa anche un esempio proprio relativo a quello che diceva Antonio, relativo alle famose lenzuolate di Bersani del 98. Nelle regioni in cui si è permesso a un maggior numero di supermercati di operare, questo ha portato con sé prezzi più bassi per i consumatori, della concorrenza, maggior crescita della produttività e dell'occupazione. Quindi è chiaro che non è, come dire, la bacchetta magica, la soluzione di tutto, però quando Antonio dice abbassare i prezzi e abbassare le tasse, beh certo siamo tutti d'accordo, ma come si fa? Questo è un modo per farlo, ci vorrà tempo, ma io credo che siamo sulla strada giusta, insomma. Agostino da Messina, 800 24 00 24, che ci dice Agostino? Dalla Sicilia, sì, ciao, quindi. Buongiorno. Dalla Sicilia, che succede in Sicilia, Agostino? Ti chiamo proprio perché questa situazione dello sciopero sta diventando, secondo me, ormai insopportabile. Io, guarda, sono un medico, vivo a Messina ma lavoro a Catania e quindi giornalmente io faccio l'autostrada Messina-Catania, come oggi per esempio. Che già non mi sembra particolarmente agevole, no? Se non ricordo male. No, già di per sé non è agevole, ma questa situazione la rende ancora meno agevole perché il problema del carburante ormai è diventato impossibile trovare in tutta la zona tra Messina e Catania un distributore che abbia del gasolio. Tu pensa che perché io, c'è il blocco degli autotrasportatori per il caro benzina, per il caro prezzo. La cosa ridicola è che io vado a fare carburante traghettando a Villa San Giovanni. Qui in Calabria. In Calabria, perché lì il carburante ovviamente c'è. Tu pensa quindi quanto mi costa dover traghettare per andare a fare carburante in Calabria. Certo. Ma non è questo solamente il problema. E oggi, per esempio, tu pensa... gli autotrasportatori poco fa hanno proprio chiuso l'autostrada, la Catania-Messina, fino a qualche giorno fa, fino anche stamattina si poteva transitare, almeno gli automobilisti potevano transitare, ora hanno deciso di bloccare. Quindi non demordono. non demordono, ma io a questo punto mi chiedo, ma è giusto che la forza pubblica possa permettere comunque ad oltranza questo tipo di sciopero? Cioè, l'autostrada è un bene pubblico, insomma, è dello Stato, io sono un cittadino, io viaggio, lavoro viaggiando, e per me è essenziale poter percorrere questa strada. Certo. Io non ritengo giusto, superati ovviamente, ho dato per scontato il diritto di sciopero e di manifestare, ci mancherebbe pure, ma penso ci siano dei limiti e oltre i quali non si possa andare, e ormai è una settimana che queste persone... Agostino, dimmi una cosa, tu appoggi magari le richieste, i contenuti, ma non il metodo, sei dubbioso su entrambe le cose? Guarda, come la pensi? Ti dico subito, innanzitutto a mio parere non sono neanche chiare le richieste. Questo è vero, molto fumose queste richieste, sì, si parla del problema del caro benzina e del fatto che in Sicilia forse si dovrebbe pagare qualcosa in meno, vabbè, ma questo penso sia un problema, voglio dire, di tante regioni, chiaramente posso dire anche che potrebbe pure essere corretta la motivazione, ma non condivido certamente le modalità, tu pensa ormai abbiamo supermercati vuoti, e pensa anche alle difficoltà per i servizi di prima necessità, certo, anche per la immagino sanità gli ospedali stessa. Anche, certo, certo, certo. Appunto, per la sanità, per il trasporto dei malati, per tutto, perché poi tu capisci che attorno all'ospedale poi viaggiano, c'è tutto il trasporto di beni essenziali, dai medicinali, ai presidi, a tutto, non mi sembra sia possibile continuare in questi termini. Dimmi una cosa Agostino, poi sentiamo cosa ne pensa Umberto Brindani, sai che in questi giorni si è detto ci sono che appoggiano dietro le quinte estremisti di destra in particolare, ma anche di sinistra, e poi diceva il presidente di Confindustria Sicilia c'è anche dentro, c'è anche la criminalità organizzata che in qualche modo muove le fila. Che impressione ne hai tu che sei di lì? Guarda, Agostino? Io onestamente non sul fatto che sia appoggiata politicamente da destra e sinistra, sì, questo ne ho avuto anch'io diciamo sentore, perché ho visto amici che appartenenti o alla destra o alla sinistra in realtà condividevano questa iniziativa, ma che poi vi possono essere infiltrazioni della malavita, questo ovviamente non ne ho alcuna riprova idea. Né dimostrazione, quindi Agostino, non lo so, io penso che gran parte di queste persone, voglio dire, vivano un disagio e saranno reale, queste persone, bisogna vedere se la protesta è giusta. Agostino, ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, hai dato un'idea molto chiara, e prima di collegarci con un altro pianeta volevo sentire il parere di Umberto Brindani su questa cosa della forza d'urto, manifestazione dei forconi in Sicilia. Umberto. Allora, dunque, sulla questione della mafia, se Ivan Lobello dice che c'è di mezzo la mafia, presidente di Confindustria Sicilia, il presidente di Confindustria Sicilia, che ricordiamo, insomma, è un personaggio assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Certo. Insomma, io non ho informazioni per dargli ragione, ma mi viene il sospetto che qualcosa di vero ci sia. Per il resto, Agostino ha, come dire, fatto un editoriale. Verrà il momento, tra l'altro mi sembra che abbiano adesso prolungato le proteste fino a mercoledì addirittura, sì. No? Quindi verrà forse il momento in cui veramente la forza pubblica dovrà intervenire con precettazioni, con interventi, perché non è possibile che un'isola sia completamente una parte d'Italia sia completamente in ostaggio. Oltretutto, come diceva giustamente Agostino, non si capisce bene perché. Perché è vero che gli autotrasportatori chiedono benzina meno cara, ma insieme a loro ci sono per esempio gli agricoltori e anche i pescatori che hanno già delle riduzioni sul prezzo della benzina. E poi ci sono, a questo si sommano richieste giustificate ma assolutamente vaghe, temo, come abbassiamo le tasse, abbassiamo il costo dell'elettricità e così via, insomma. Quindi la rivolta, cosiddetta rivolta dei forconi, è il sintomo sicuramente di una situazione di grande disagio di molte persone, di molte categorie, però sono totalmente d'accordo con Agostino quando dice che insomma c'è un limite a tutto, non è questo il modo. Umberto, adesso non so se lo sai, c'è questo collegamento straordinario appunto con un altro pianeta, poi c'è Enza da Roma, sempre al numero verde per i vostri collegamenti invece diciamo terrestri, 800 24 00 24. Riflessioni da Marte. Ebbene sì, una cosa in questi giorni la si è capita molto bene anche da quassù, da Marte. È meglio nella vita non fare gioiellieri, almeno in Italia. E dunque anche voi, genitori in ansia per i vostri figli che devono decidere cosa fare da grandi, se il precario o il disoccupato, sappiatelo subito, non è il caso di intraprendere il calvario del gioielliere. Una vita di stenti, una vita di privazioni. Ma sapete, o voi che vi lamentate del caro vita, della crisi nera, della preoccupazione di non arrivare a fine mese, dicevo, sapete quanto guadagna un povero orefice? Meno di 14.000 euro netti all'anno. Avete capito bene, guadagnano una vera miseria, così almeno dichiarano. Dunque, non fatevi abbagliare per scegliere il futuro professionale dei vostri figli da mestieri solo apparentemente remunerativi. Del resto, non è tutto oro quello che luccica. E se non lo sanno i gioiellieri, chi lo deve sapere? E sconsigliate ai vostri figli, eventualmente, anche di fare i comandanti delle navi. Non dico alle vostre figlie, poiché è ancora mansione prettamente maschia. Soprattutto sconsigliatelo ai vostri rampolli nel caso essi nutrissero una qualche simpatia per il classico macio italico, gradasso et fellone, narciso e inetto, forte con i deboli e debole con i forti, che adora gli onori ma rifugge gli oneri. Quei tipi di comandanti ce ne sono tanti in realtà, negli ambiti più svariati della nostra vita. Sono buoni giusto a dire da lontano, perché se la sono bene bene data gambe. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca. Maschettino può essere scusabile, tutto sommato, nomen omen. Ve li ricordate gli schettini, voi terrestri? Avevano le rotelle, no? Ebbene, messi su un piano inclinato, gli schettini rotolano, di logica. E infatti il comandante Schettino Schettino è rotolato sulla scialuppa. L'ha detto lui, non voleva scappare, sulla scialuppa c'è rotolato. E ieri ha detto fiero al jeep che lo interrogava: ma che, non ho abbandonato la nave, sono rimasto sullo scoglio. Come se stare su uno scoglio equivalesse a stare sulla nave. Ero sullo scoglio dove mi ha trovato il comandante dei vigili del Giglio. Ero perfettamente riconoscibile, ha sottolineato Schettino, perché indossavo la divisa, come se avere ancora addosso la divisa equivalesse a fare automaticamente il proprio dovere. E come voleva essere a quel punto Schettino? In bikini? Insomma, anche Schettino Schettino era comandante a sua insaputa. E a sua insaputa era prima sulla scialuppa e poi anche sullo scoglio. Lei è proprio uno Schettino, viene da dire, specialista nell'inchino. Yuppalalera, yullalla, al galoppo per di qua. Un inchino, una riverenza, un altro giro di coscienza. Yuppalalera, yullalla, al galoppo per di qua. Un inchino, una penitenza, una mano morta sulla coscienza. Yuppalalera, yullalla, al galoppo per di qua. Un inchino, una riverenza, un altro giro di coscienza. Yuppalalera, yullalla, al galoppo per di qua. Un inchino, una penitenza, una mano morta sulla coscienza. Torniamo subito con i piedi per terra e prima di concederci questa altra breve pausa vorrei sentire l'argomento di Enza da Roma. Enza. Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao a te. Io è la prima volta che ti ascolto, anche se poi in realtà è la Radio 24 l'ascolto da quando è nata. Enza, scusami, ecco. Com'è possibile tutta questa, com'è possibile? Mi sentivi allora in altri programmi? Mi sentivi in altri programmi in passato? No. Non ricordo, abbi pazienza, direi una bugia, perché ascolto solo le trasmissioni quando parlano di economia. Ti interessa in particolare? Sono molto interessata, sì. Enza, però devi fare una promessa, una doppia promessa. Dimmi. Una, che da ora in poi tu il sabato sempre puntualmente ascolterai Radio 24, io poi ti interrogo, ti chiamo e chiedo di cosa ho parlato. Questo. Due, vabbè. Ti occupi di Facebook, hai... C'è no. Una... No, niente. No, vabbè, no. Poi dopo leggeremo anche tutti i commenti tantissimi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, se non sei tecnologica su questa cosa ti perdono, però poi ti chiamo all'appello sabato prossimo. Enza, qual è il tuo argomento? Allora, senti, no, adesso siamo già un po' fuori tema, però volevo rispondere al direttore, dico bene? Umberto Brindani, o direttore di Oggi, sì. Il direttore del giornale Oggi, che a sua volta faceva riferimento all'economista che ogni tanto... Tito Boeri. Che anche qui non ci sono più le mezze stagioni. Sì. Va bene, esatto. Allora, io volevo solo commentare e dire, forse anche sbagliato, non lo so, dimmi tu. Allora, dicevate che... relativamente al servizio taxi, che era questa, oramai è l'argomento quotidiano, no? Non si parla più delle mezze stagioni, ma si parla dei taxi, che il problema dell'economia passa attraverso i taxi. Allora, se noi mettiamo più taxi, mettiamoli, no? E voi pensate, voi normali, noi, comuni cittadini che abbassano i prezzi. È matematicamente impossibile, perché non è questo il problema. Il problema non è che mancano i taxi. Allora, l'unica cosa che dovremmo per poter abbassare i prezzi sono abbassare la benzina, abbassare i contributi, abbassare le assicurazioni. Questi sono i numeri che portano il prezzo di un servizio. Allora, se noi, per carità, vogliamo 100.000 taxi, mettiamoli, parte non si camminerebbe più, perché basta fare un giro per la città e in qualunque momento, in qualunque ora, oramai è diventata una campagna denigratoria, pare che tutto passa attraverso il taxi. Io parlo in prima persona, non ce l'ho più il taxi, ce l'avevo fino a 5 anni fa. Era una tassista, quindi? Era una tassista, infatti per questo posso parlare. Perché non ce l'hai più? Perché non ce l'hai più? Perché ho fatto una scelta diversa, perché era comunque un lavoro massacrante, era un lavoro usurante, invece non è riconosciuto come lavoro usurante. Lo sapete voi, sì, che siete lì a parlare di questi poveri disgraziati, no? Che fanno un lavoraccio, lavorano dalle 10 alle 12 ore al giorno. Io sono stata una di quelle che ha avuto una rapina, forse uno dei motivi per cui ho lasciato è anche questo. Io ho avuto una coltellata. Perché tutti questi bei signori che sono seduti lì in scrivania, direttori contro direttori, economisti contro economisti, non vengono un giorno, non con me più perché non lo faccio più, ma con qualche collega, ma non un giorno, un mese, un anno, a lavorare, vedere gli incassi, perché voi pensate che siano mega stipendi. Si guadagna, perché è chiaro, chi è che fa il lavoro senza guadagnare? Anche tu, no? Sei lì seduta e credo che prendi uno stipendio. Beh, seduta non tanto, adesso seduta perché la mia posizione in scrivania, ti assicuro che faccio degli orari trementi anche durante la settimana, vado a letto alle 3 di notte, non è che proprio è uno stipendio un po' più basso di un tassista forse. Perché il concetto è questo, no? Sì. Se io vado in un qualunque posto di lavoro e voglio abbassare il costo, dico benissimo, mettiamo un'altra persona a fare anche il tuo lavoro, allora da domani tu che sei, facciamo conto che tu sei un'impiegata, non lo sei, ma facciamo finta che tu sei un'impiegata, ma devi lavorare 8 ore al giorno per 1000 euro al mese, da domani liberalizziamo il tuo posto di lavoro e ce ne voglio un altro seduto accanto a te, fa lo stesso tuo lavoro per cui 50 te, 50 lui, e invece di portarti 1000 euro a casa te ne porti 500, ma tu saresti contenta? Guarda, è un po' complessa la questione, Enza, perché in realtà poi, per esempio, nel mio lavoro di giornalisti ce ne sono milioni in Italia, no? E poi i posti effettivamente sono quelli, e quindi tutti questi giovani che si laureano in scienze della comunicazione e cose varie, diventa un po' complesso per loro trovare una collocazione, quindi è difficile proprio fare un paragone di questo tipo. Ritengono che di giornalisti evidentemente ce ne siano abbastanza, non ce ne sia più bisogno. Di taxi invece ritengono che quando uno a Milano, a Roma ha bisogno con fretta di un taxi per raggiungere una destinazione, fa fatica a trovarlo e poi lo paga anche tanto. Questo è un po' il ragionamento, Enza, detto molto semplicemente. Tu quante volte mi hai ascoltato? Mi sentivi su rispetto a quello che dicevo? Sì, male, molto male, perché io sono per strada e sento malissimo. Però dicevo, no, tutta sta demagogia contro sti disgraziati, no? Ma perché non andiamo a colpire le cose più importanti, invece di perderci nel taxi o nella farmacia, no? Nel taxi e nella farmacia, però non parliamo di cose molto più importanti da liberalizzare. Per esempio le farmacie, le assicurazioni che hanno fatto cartello. Io sono andata a pagare la mia assicurazione il 15 di gennaio e lo sai quanto mi hanno chiesto? 5.300 euro l'anno. Adesso tu dimmi un disgraziato che deve campare, deve lasciare la macchina. E lasciamo le macchine, andiamo tutti in bicicletta, poi voglio vedere chi è che paga le tasse. Sei stata chiarissima, adesso vorrei chiedere a Umberto Brindani cosa ne pensa e poi parlare anche un po' dell'altra grossa, della principale notizia di questa settimana. Umberto? No, cercavo di intervenire in diretta con la signora, perché signora Enza, perché parlando con me, sbaglia completamente indirizzo, perché sul numero del mio giornale che è in edicola, il secondo articolo più importante dopo quello sulla Costa Concordia, è proprio quello che lei ha chiesto, cioè noi siamo andati a passare una giornata con un tassista di Milano, il taxi si chiama Marte 66, magari la signora lo conosce. Proprio Marte si chiama. Bene, abbiamo passato una giornata con lui dal mattino alle 6, quando, alle 7 quando esce, fino alla sera quando torna in famiglia, proprio per raccontare quello che diceva la signora. Quindi non c'è demagogia, o perlomeno non c'è in tutti, mi danno un po' fastidio queste generalizzazioni. E sul merito di quello che dice la signora, è la prova del fatto che noi siamo sempre fermi al non nel mio giardino, no? La famosa frase che dice siamo sempre d'accordo, basta che non veniamo toccati noi. Perché il discorso che viene fatto in questo momento dal governo, io non voglio difendere il governo, non me ne frega niente difendere il governo, però è anche giusto dire che non vengono colpiti i tassisti o solo i tassisti, ma è un pacchetto di misure che tocca le edicole, i negozi, i pedaggi autostradali, i distributori di benzina, i notai, le ferrovie, i notai, gli avvocati che vogliono scendere in sciopero, le assicurazioni stesse, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che, non, come dicevo prima, non è la bacchetta magica, ma non si può pensare che siccome io sono un tassista piuttosto che un giornalista, piuttosto che un notaio, colpisce solo me. Si sta cercando di fare proprio una operazione a tappeto per far sì che le liberalizzazioni siano, come dire, vaste, no? Poi naturalmente ciascuno nella propria categoria, del proprio lavoro, è chiaro che vede solo se stesso, però bisognerebbe essere capaci di allargare lo sguardo. Io vorrei adesso andare sull'argomento più grosso di questa settimana. Ho lasciato che gli ascoltatori scegliessero un po' liberamente a cosa dare priorità e cosa avevano, diciamo, più a cuore. Sappiamo la storia naturalmente di come è andata, almeno così a grandi linee, poi tutto verrà fuori dalle inchieste, si spera, no? Della tragedia della nave Concordia. Si è parlato moltissimo del capitano De Falco e del comandante Schettino, con quello che ha combinato, e ancora adesso dice: oh, io in realtà non sono fuggito, ero sullo scoglio, sono scivolato sulla scialuppa. E poi dice che la Costa l'aveva avvisata, la Costa Concordia. Quindi bisogna vedere anche le responsabilità reali della società che ha dato, che ha, lui ha dato l'allarme tardissimo, si sarebbero potute salvare forse tutte le persone. La Costa dice che è colpa sua, lo ha anche sospeso, non lo assicura neanche più, e invece qualcuno dice no, lui l'ha chiamata la Costa varie volte, forse è colpa loro se hanno voluto sminuire per un po'. Insomma, in ogni caso mi interessava questa cosa da parte tua, Umberto. Ci sono stati, si è parlato tantissimo di metafora italiana, no? L'Italia mezza affondata, mezza sì, mezza no, con i comandanti incapaci, i tipici bulli, sono anche così nelle aziende, tantissimi posti e molti al comando. Ma c'era per esempio un Aldo Grasso che nel suo editoriale sul Corriere mercoledì diceva: grazie capitano, quando c'è vo, anche il suo vada a bordo cazzo, no, quella parolaccia eccetera eccetera, insomma lo ringrazia, è l'eroe vero secondo Aldo Grasso e molti altri di questa vicenda. Merlo invece, Francesco Merlo, anche lui è spesso qui e Non ci sono più le mezze stagioni, dice in realtà sì, con tutte le sue dabbedaggini, con il guaio orribile che ha combinato Schettino, in realtà De Falco, come altri dicono, ha fatto semplicemente il suo dovere. Qui in Italia si diventa eroi facendo semplicemente il proprio dovere. Cioè, in realtà a me il De Falco non mi entusiasma più di tanto, perché rappresenta un po' quei capi capetti che sanno solo ordinare, intimare, molto macisti. Se avesse detto a Schettino, avesse provato un po' di empatia dicendo: ma insomma ricordati che è una divisa, ricordati quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, torna su, anche se ne salvi uno soltanto sarà un gesto importante. Sei più d'accordo con Aldo Grasso, che esalta De Falco come eroe nazionale, o Merlo, che mitiga un po' e tira fuori anche questo punto di vista? Beh, tutta la vita con Aldo Grasso, perché tra le altre cose, insomma, io su questa vicenda una minima competenza ce l'ho, non solo perché mi è capitato. Sei stato capitano anche tu? No. No, mi è capitato di fare una crociera, vabbè, su una nave gemella, ma io vado per mare con la mia barca a vele, quindi conosco, sono costretto a conoscere le regole, no? E esiste una gerarchia, prima di tutto. Nel momento in cui si chiama il Mayday, cioè il segnale di soccorso, il comando della nave o della barca a vela passa alle persone che sono incaricate del soccorso. Questo glielo dice chiaramente De Falco a Schettino, gli dice: adesso comando io. Non è un modo di dire, è una regola di legge. L'atteggiamento, il comportamento, a me questo De Falco mi sta molto simpatico, perché è come se avesse dato un po' voce alla rabbia, se vuoi stare nella metafora della nave che affonde, che ognuno si prende le proprie responsabilità, la schiena dritta in questo italiana, senso. No? Schettino è il simbolo dell'approssimazione italiana, De Falco è il simbolo invece dell'Italia che vorrebbe far funzionare le cose. Non dimentichiamoci che Schettino, diciamo, il suo comportamento successivo all'incidente, possiamo parlarne se vuoi fino a domani, ci sono mille versioni, altre mille ne verranno fuori. Comunque se l'è data gamba, diciamo, perché sia scivolato o no, risalire. La sua colpa vera, quella secondo me, quella che è riconosciuta anche dalla sua deposizione davanti al PM, è quella di aver trascurato una cosa molto semplice. Ti dicevo, io vado per mare e sono sempre stato abituato a stare lontano dalle secche, lontano dagli scogli, anche se avevo una barchetta di 10 metri a bordo, avevo gli amici o la famiglia. Quest'uomo era al comando di una nave di 300 metri con 4.200 persone a bordo, un e paese. Ha deciso di fare la bravata, lo smargiasso, l'inchino, ma non puoi, cioè, poi tutto quello che viene dopo è un problema più psicologico che, come dire, di competenza navale, ma non è possibile fare quello che ha fatto lui, lanciando la nave a 15 nodi verso gli scogli e poi all'ultimo momento virando a destra, capisci? Cioè, questa è un'assurdità vera ed è all'origine di tutto quello che è successo dopo. Senti, io darei oltre spazio tra poco a Beatrice da Rovigo, a Giordano da lei, con un po' anche ai tantissimi che sono intervenuti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Se lo volete trovare dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, e poi tra poco la viabilità. Ne leggo già qualcuno, insomma, cosa ne pensano di Schettino, se appunto è vittima di un linciaggio preventivo, ennesimo rappresentante di un'antropologia italica, diciamo. Davide, dopo aver ascoltato la telefonata col capitano di porto, sono senza parole, ma c'è una parte del paese che è proprio così. Lorenzo, penso che un linciaggio preventivo non ci sia stato, esistono responsabilità precise, regolamentate da leggi, con tanto di pene previste in caso di inadempienza. Semplicemente in Italia non siamo abituati ad accettare come una cosa normale il fatto che chi sbaglia debba pagare. Leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi, ma pochissimi, perché siamo proprio in corsa. Stefano Landi scrive: Schettino in questa tragedia è stato il più grande responsabile, in quanto ricopriva il grado più alto nella nave, ovvero quello di comandante. Per il resto penso come Dario sopra, che ha anticipato il mio commento: nessuno si era accorto di niente in passato. E così Gianluca dice: molti sapevano le sue bravate. Poi c'è Angelo, Francesco, Alberto, Enrica, Dora dice: bene, anche se ci sono prove schiaccianti, sono convinta che prima la prima ipotesi, poi la telefonata molto ma molto incalzante dell'altro comandante, mi dava l'impressione che non gli desse molta tregua, insomma, che l'ha messo in difficoltà. Poi c'è Bianca, Antonia, scusate, non riesco a leggerli tutti, ma poi me li leggo privatamente, perché adesso bisogna anche dare spazio a, diciamo, il commento, il punto di vista di Maria Laura Rodotà del Corriere. Maria Laura, che ti ha colpito in questi giorni? Ma colpita e affondata, purtroppo. C'è di tutto. Vorrei però parlare di alcune notizie, di quelle che fino a poco tempo fa ci appassionavano e ora sono cose minorissime, accolte con fastidio. Sì. Per dire, tipo, due oggettine, parte civile contro Nicole Minetti, Emilio Fede pensionato, che non vuole. Corona che vuole scendere in politica con Matteo Renzi. Ecco, un tempo ne avremmo parlato fino all'esaurimento, ora sembrano un po' cartoline da un passato prossimo dissennato, del quale vorremmo dimenticarci, ma che non dovremmo dimenticare, perché è da questo passato prossimo che scaturiscono parecchi dei nostri guai. Grazie Maria Laura Rodotà. Un po' di dissennatezza continua in vari altri ambiti, come abbiamo visto. Però Beatrice da Rovigo riesce a essere proprio in una sintesi estrema, proprio ratta come la folgore. Beatrice, perdonami. Sì, però velocissima, buongiorno. Grazie, ciao Beatrice. Buongiorno, volevo solo dire la mia opinione sulle liberalizzazioni. Sì. Secondo me vanno benissimo, anche perché mio marito dice che ogni albero fa la sua ombra, quindi giustamente ognuno riuscirà ad avere il proprio guadagno e si creeranno posti di lavoro. Però io volevo anche dire che anche gli stipendi devono essere un pochino più alti, perché io adesso ho un lavoro, sono impiegata, però quelli nuovi che entrano, che hanno lo stipendio che è, non dico metà del mio, però anche loro, per quanto i prezzi saranno più bassi, però anche loro, il potere d'acquisto dello stipendio sarà più basso, quindi non so quanto potrà servire questa cosa. Ma interessante questa chiave di lettura, Beatrice, anche se la stessa Fornero ha ricordato alla ministra che gli stipendi in Italia sono un po' troppo bloccati da tanto tempo, sono piuttosto bassi. Chiedo perdono a Giordano, che mi sa che è caduto, tra l'altro si chiama come il mio cognome, e molti altri ascoltatori. Siamo veramente un po' in corsa, lo sapete, è un mio vizio, riempio di tante cose la puntata e poi dopo devo correre, e direi di andare allora con il commento, la parola della settimana, che vorrei suggerire a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Ciao Valeria. Direi che senz'altro un termine che è rimbalzato molto in questi giorni di grande evocazione e suggestione: eroe. Eroe, allora eroe viene, lo sappiamo, dal greco eros, poi è passato al latino eroem, e nella mitologia greco-romana l'eroe chi era? Era il figlio nato dall'unione di un dio o di una dea con un essere mortale. Poi la parola nella lingua italiana dalla fine del 400 ha indicato non solo chi sa lottare con grande coraggio, ma anche chi arriva al sacrificio di se stesso. Poi la parola è stata usata per indicare uomini, donne illustre, eroi, eroine del Risorgimento, oppure Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Ma oggi, come dicevate, accennavate prima, c'è un'inflazione del termine eroe, che tende a essere usato anche con riferimento semplicemente a chi fa il proprio dovere. La cosa che ho appena detto non è una mia geniale osservazione, l'aveva detta e l'aveva scritta nel 1905 un uomo, quello sì geniale, Alfredo Panzini, nel suo Dizionario Moderno, nel quale scriveva: oggi il vocabolo eroe è prodigato con una generosità singolare. Eravamo nel 1905, è passato più di un secolo, ma mi pare che le cose non siano cambiate. Tutti i caratteri italiani, grazie Valeria, ce l'ha confermato. Ciao Valeria della Valle. E adesso invece, in questo pochissimo tempo che ci rimane, intanto sempre su Facebook tanti sono intervenuti anche sulla questione liberalizzazioni, per lo più favorevoli, Lenoir che dice liberalizzare tutto e subito, Robert, probabilmente i tassisti hanno torto, ma mi chiedo perché non si comincia a liberalizzare da avvocati e notai, ma questo già si sta facendo, poi Fabio, Alino, Diego, Nuccio, Alberto, tantissimi che ringrazio come sempre. Volevo chiederti in chiusura, caro Umberto Brindani, a parte ho visto questa indiscrezione su Bocchino che si separa, insomma mi sembrava anche un po' destino inevitabile, voi anche eravate stati quelli dello scoop della storia con la Carfagna, no? Ma ti volevo chiedere, Berlusconi ha detto in realtà le manovre Monti hanno dato pochi frutti, siamo pronti a essere richiamati, secondo te richiamati all'ordine intendeva? È possibile che te ne sia piacerebbe, così. Diciamo. E poi oggi il giornale titola Berlusconi è pronto a tornare, è una minaccia? Oh. Ma posso dirti una cosa, scusami se prego. Sono ego riferito, no. Ma quando Berlusconi si dimise, due o tre mesi fa, noi facemmo una copertina che diceva ma è un addio o un arrivederci? Io arrivederci, mi sa che è un arrivederci questo. Penso che fosse un arrivederci, poi certamente sì. Lui non molla. Per chiudere ti parlo di una passione tutta giapponese, c'è la console nell'orinatoio. Adesso in Giappone impazziscono uomini di tutte le età, si chiudono nei bagni pubblici per non so quanto tempo perché ci sono dei giochi elettronici che attraverso la pressione dell'urina nel water gli permettono di fare una specie di joystick, di muovere delle cose, delle robe assurde. È una cosa che potrebbe piacerti questa, Umberto Brindani. Ma dove le trovi queste notizie? Sembri Sandro Giacomo. Sull'agenzia dell'ANSA, me le guardo a migliaia, tutti i giorni. Senti, per l'iguana fammi sapere se poi hai spazio, Umberto Brindani. Va bene? Al mio amico. Bene, facci sapere. Grazie Umberto. Grazie a voi. Grazie. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.